Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Continua il nostro volo nel mondo del calcio alla ricerca di uomini straordinari e particolari che abbiano della poesia avventurosa da raccontare. Noi cerchiamo di mantenere un atteggiamento aperto verso tutte le squadre. Abbiamo parlato della Roma di Bartolomei, del Genoa, abbiamo parlato del Verona, abbiamo raccontato il Milan di Nereo Rocco. Ecco, oggi non possiamo non raccontare la storia di quello che è stato il diretto antagonista di Rocco, l'allenatore che molti anni prima di Mourinho ha vinto Coppe dei Campioni, Coppe Intercontinentali e Scudetto, ma soprattutto quello, come dice l'avvocato Prisco, come disse l'avvocato Prisco, al quale tutti gli allenatori devono qualcosa. Prisco disse: dovrebbero tutti andare a portare dei fiori sulla tomba di Elenio Herrera ogni volta che firmano un contratto, perché Elenio Herrera è l'uomo che cambia il destino degli allenatori da lì agli anni a venire. Buenos Aires, quando le come vi, solo andava col suero. E questo tango ci immerge nei vicoli del quartiere Palermo di Buenos Aires, dove nasce il nostro protagonista. Probabilmente il 10 aprile del 1910, anche se lui si toglie molti anni e addirittura potrebbe averne anche qualcuno in più. Sta di fatto che lui fino all'ultimo proibirà perfino alla moglie di rivelare la sua vera età. Elenio Herrera Gavigliana è figlio di una modesta coppia spagnola che va in Argentina dall'Andalusia in cerca di fortuna. Lui trascorre i primi 8 anni lì, poi i genitori se ne vanno ancora, attraversano di nuovo l'oceano, tornano in Europa, vanno in Africa, in Marocco, ed è qui che Herrera tira i primi calci nel Racing Casablanca. Penso che ho dovuto lottare da bambino, ho cominciato a lavorare che aveva appena 10 anni, che molta volta da bambino abbiamo passato la fame. Mio padre era un falegnano e quando non lavorava un giorno non si mangiava molto. Herrera non ha una grande carriera calcistica come molti grandi allenatori che arriveranno nei decenni successivi, come anche Mourinho. D'altra parte, Sacchi diceva, non è obbligatorio essere stati un cavallo per fare il fantino. L'unico trofeo vinto da calciatore è una Coppa di Francia. Dopo la fine della guerra comincia a allenare delle squadre dilettantistiche francesi, ma si capisce subito che questo ha una marcia in più degli altri, e viene chiamato in Spagna. C'è da occuparsi dell'Atletico Madrid, vince 2 scudetti di fila nel 50 e nel 51. Va a Siviglia, 3 anni, buoni piazzamenti, non riesce a vincere, e poi approda al Barcellona nel 59 e nel 60. E il Barcellona non è ancora una squadra stellare, perché la regina del campionato di quei tempi è il Real Madrid, dove giocano dei veri e propri fenomeni. Puskas, Di Stefano, Gento, è una squadra stellare, è la squadra che vince le prime 5 Coppe dei Campioni consecutive. E in Italia intanto lo scudetto se lo contendono in quegli anni il Milan e l'Inter. Proprio il presidente Moratti, che è il padre di Massimo, si accorge di questo argentino che col suo Barcellona riesce a tener testa al Real Madrid. E se l'Inter deve fare il salto di qualità e anche a livello internazionale, bisogna partire dall'allenatore. La notizia che fa scalpore è quella di un Herrera che al campionato non ancora finito firma già per l'Inter. Oggi succede ogni momento, ma allora era già una anomalia. Seconda notizia forte è quella che il contratto firmato è di 65 milioni di lire all'anno, quindi una cifra astronomica per quei tempi. E 6 lire al secondo, titola la Gazzetta, e siamo anni in cui con 1 milione ci si compra un appartamento. Poi ci sono i premi partita, che nel suo caso sono doppi, e poi lui riesce a ottenere di essere il responsabile tecnico di tutte le formazioni, anche quelle giovanili, e di ricevere i premi anche sulle vittorie dei tornei minori. Insomma, una pioggia di soldi che rappresenta una rivoluzione nel mondo del calcio. Sono molto onorato, ma non sono da invidiare, ho molto più responsabilità che ognuno, mi si esige sempre il massimo, sempre la vittoria, non si ammette una sconfitta. Se crea polemiche con false dichiarazioni o anche se inventa delle dichiarazioni. Eh sì, Herrera si prende le luci e le difficoltà del ruolo di allenatore e fa capire subito che con lui le cose vanno in maniera diversa. Ha uno stile basato sulla velocità, sul movimento, sull'intercettazione della palla nei confronti dell'avversario. Nasce il famoso motto "attacca la balla", che vuol dire attacca il pallone. Oggi lo chiamiamo pressing, lo chiamiamo coprire gli spazi. Bene, l'ha inventato lui. Andiamo veloce, attacca, attacca la balla, veloce, andiamo, le gambe, le gambe allerta, ecco, attento, veloce, attacca la balla, più veloce. E l'inizio è travolgente, la squadra corre, diverte, e nel frattempo Herrera, che è capo anche del vivaio, come abbiamo detto prima, comincia a guardare proprio al vivaio e comincia a vedere dei giocatori che gli interessano. Sono giovanissimi, uno si chiama Giacinto Facchetti e uno è figlio di un grande campione, si chiama Sandro Mazzola. Il problema iniziale è che il ritmo col quale l'Inter inizia il campionato 60-61 è forsennato e non riesce a resistere. Nel girone di ritorno ha un calo fisico e arriva solo terza, però è un buon esordio per una squadra nuova con schemi nuovi e mentalità nuova. Campionato 61-62, l'Inter di Herrera anche questa volta perde colpi nel girone di ritorno e alla fine la spunta proprio il Milan di Rocco. Insomma, tra i dirigenti nerazzurri c'è un po' di malumore e Leni Herrera non è un allenatore qualunque, è un antesignano dei moderni allenatori, però è uno che polemizza con la stampa, è uno anche che vuole un sacco di soldi. C'è un po' di tensione. Alla fine del campionato lui abbandona la sede dell'Inter, va in Spagna, va a fare il CT della nazionale spagnola ai mondiali del 62 in Cile. Sembra un divorzio annunciato. Moratti non sa cosa fare, trascorrono settimane nell'incertezza, addirittura mette sotto contratto un allenatore che fu sciagurato per la storia proprio del calcio italiano, Edmondo Fabbri. Alla fine Herrera ritorna come se niente fosse, Fabbri viene per fortuna dirottato da un'altra parte, in realtà va a far danni con la nazionale italiana perché poi sarà l'uomo della Corea, anche perché lui da quel momento cercherà in tutti i modi di ignorare i giocatori dell'Inter per vendetta con l'Inter, la pagherà cara perché la sconfitta in Corea è soprattutto attribuibile proprio a questo allenatore. Penso che ogni allenatore di grande squadra deve avere solo un traguardo: vincere, vincere lo scudetto e vincere ogni competizione. 2 anni già siamo partiti fortissimo, questo anno abbiamo deciso di partire più piano e dare tutto l'sforzo e nel girone del ritorno. Eh sì, partire piano e arrivare in crescendo. Questa volta Herrera il campionato lo vuole vincere e intanto si sta formando la squadra. Allora, in porta c'è Buffon, peraltro il prozio del Buffon che conosciamo oggi, anche se arriva dalla Fiorentina, un signore che si chiama Giuliano Sarti, quindi Sarti. Poi ci sono i due terzini, Burnic e Facchetti. In mezzo c'è Guarneri e c'è un terzino che Herrera fa diventare il libero, che si chiama Armando Picchi, che sarà il capitano. Poi c'è un mediano che spinge, prima si chiamava Zaglio, poi diventerà Tagnin e infine Bedin. E poi c'è un signore che è arrivato dalla Spagna, portato da Herrera dal Barcellona, che si chiama Luisito Suarez. E vicino a Suarez c'è un mancino che non è un gran corridore, ma ha un grande stile e grande senso tattico, che si chiama Mario Corso. Sulla destra c'è Jair e poi c'è Sandro Mazzola. Il centravanti cambia sempre, prima sarà Di Giacomo, poi sarà Milani, poi sarà Peirò, poi sarà Domenghini. Insomma, una squadra particolare, votata al contropiede, ma che sa aggredire la palla, attacca la balla, come diceva lui. Deve fare girare la palla in velocità. Sentite cosa dice Sandro Mazzola. Cioè, era molto basato, oltre che sul lavoro fisico, eccetera, sulla rapidità, i suoi allenamenti erano tutti sulla velocità. Era tutto, lui diceva sempre che era quella la cosa più importante, che se eri veloce, è chiaro, poi erano dei giocatori bravi, però se non eri veloce non vincevi. E lui su questo insisteva, ma credo che è un credo anche di oggi questo. Eh sì, Herrera è il precursore dei tempi, diventa l'esempio per la maggior parte degli allenatori moderni e così alla terza stagione raccoglie i frutti di questo lavoro. L'Inter supera la crisi del girone di ritorno e conquista il suo ottavo scudetto, il primo dell'era Moratti all'Odi, che era del direttore tecnico, il general manager. È un colpo d'ala che non fa che confermare le grandi capacità di Herrera e che si guadagna questo soprannome. Il mago. Non si sa chi ha coniato questo termine, i maligni dicono che sia stato proprio lui a farlo. Comunque non ha mai nascosto di essere, come dire, il primo estimatore di se stesso. Mi hanno chiamato già in Francia, in Spagna e in Italia perché ogni club che io alleno con gli stessi giocatori aumenta di molto suo rendimento, suo incassi e suo prestigio. Ma io non sono un mago, io sono un allenatore che lavoro e che ho bisogno dei bravi giocatori come qui nell'Inter. Elenio Herrera è un metodico, uno studioso del calcio. La parte più importante per lui è la preparazione di una partita. Ha un quaderno su cui annota tutto, prende appunti sui giocatori, scrive frasi con le quali motiva i giocatori durante gli allenamenti. E poi ci sono i famosi cartelli. Tutti i giocatori dell'Inter con cui ho parlato se ne ricordano. Gli spogliatoi sono pieni di cartelli con frasi che i giocatori non possono non leggere. Insomma, un vero e proprio lavaggio del cervello, quindi un lavoro non solo sul fisico ma anche e soprattutto sulla mente. Anche qui Herrera arriva prima di tutti. Un allenatore deve occuparsi di quattro cose fondamentali: la preparazione fisica del suo giocatore, il progresso tecnico, la tattica, cioè il gioco d'insieme, e la morale. Per questo ultimo ci vuole psicologia, anche per conoscere i suoi giocatori, il temperamento e le reazioni. E dopo la conquista dello scudetto inizia per l'Inter l'avventura in Coppa dei Campioni, anche perché ricordiamoci che sono anni in cui in Coppa dei Campioni ci andavi solo se vincevi il tuo campionato o al limite se vincevi la Coppa dei Campioni. I dirigenti vogliono fare bella figura, vogliono interrompere lo strapotere del Real Madrid, perché fino a quel punto ci sono 5 Coppe dei Campioni che ha vinto il Real Madrid, poi ne vince 2 il Benfica e poi peggio ancora per l'Inter, perché poi nel 63 a Wembley è stato il Milan di Rocco a vincere la finale. E quindi adesso dovrebbe essere il momento dell'Inter, così almeno spera Moratti. Ma c'è da comunque combattere con molte squadre e ancora col Real Madrid. E a Madrid Herrera lo chiamano habla habla, HH, habla habla, cioè parla parla, per via di dichiarazioni avventate. Insomma, lo prendono in giro e questo a Herrera non piace e avrà modo di rifarsi. Ogni uomo deve avere un traguardo e il tuo è lo scudetto. E nel calcio chi non dà tutto non dà niente. Pensa velocemente, corre velocemente, gioca velocemente. E con queste motivazioni l'Inter elimina l'Everton, poi il Monaco, poi il Partizan di Belgrado. Arriva in semifinale con il Borussia Dortmund, lo batte e approda la finale di Coppa dei Campioni, 27 maggio 64, Prater di Vienna. Da una parte c'è il Real Madrid allenato da Miguel Muñoz e nel Real Madrid c'è gente come Di Stefano, Puskas, Gento, Santa Maria. È una squadra che ha vinto tutto con dei giocatori che sono dei veri e propri miti anche per i ragazzi dell'Inter che quasi stanno per chiedere loro l'autografo. Intanto l'Inter sta anche lottando per lo scudetto, per cercare di vincere il secondo scudetto consecutivo. È un testa a testa entusiasmante, c'è l'ultima giornata da giocare con il Bologna che prima si è visto togliere 3 punti per doping e poi all'ultimo momento glieli ridanno e quindi l'Inter e il Bologna arrivano a pari. Insomma, c'è uno spareggio che sta per arrivare e soprattutto una finale di Coppa dei Campioni. La Coppa può essere dell'Inter. Stiamo raccontando la storia di un grande allenatore, forse non il più grande, ma sicuramente il primo, perché l'allenatore che cambia il modo di vedere l'allenatore da parte del pubblico. Da quel momento gli allenatori cominciano a diventare delle star, cominciano a essere più pagati dei giocatori, cominciano a essere quelli dei quali si parla di più. Tutto questo grazie a lui, grazie a Elenio Herrera, che ormai tutti stanno chiamando il mago. È arrivato all'Inter con un contratto milionario 2 anni prima, altra cosa di cui gli altri allenatori devono essere grati a Herrera, cioè il fatto di avere dato lo status di star all'allenatore, anche dal punto di vista economico. Comunque, siamo arrivati al maggio del 64, precisamente al 27 maggio. L'Inter è a Vienna, al Prater di Vienna, a giocarsi la finale di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid. E pochi giorni dopo ci sarà l'ultima giornata di campionato. Ecco apparire il gigantesco arbitro austriaco Stoll. E poi il capitano Picchi col capitano Gento, Suarez, Pacin, Di Stefano, Müller, Zocco, Corso, Jair, Puskas. Sul campo ci sono i giocatori più forti del mondo. Mazzola si trova faccia a faccia con Di Stefano, con Puskas, che peraltro gli dice: io ho visto giocare tuo padre, cioè il grande Valentino Mazzola. Cioè il clima è veramente di sudditanza psicologica. Meno male che c'è Picchi, che è il libero, è il secondo allenatore in campo, arriva da Livorno, è un uomo duro, è anche un po' più grande degli altri, dà coraggio a tutti. Ragazzi, in fondo siamo noi 11 e 11 sono loro. La partita è avvincente, è molto equilibrata. A un paio di minuti dalla fine del primo tempo si realizza per Sandro Mazzola il sogno di una vita. Io riuscii a sbloccare il risultato e mi ricordo anche lì un altro episodio che fece una capriola. Io non ero uno che esultavo abbastanza in modo contenuto, però per me la partita era finita. Avevo fatto gol al Real Madrid e lì ancora mi ricordo che arrivò Luis e mi dice: oh, guarda che adesso questi ce ne fanno 3 se te stai qui a giocherellare, cosa credi? E nel secondo tempo Milani raddoppia, poi però Felo per il Real Madrid accorcia le distanze, sembra che il Real Madrid possa arrivare al pareggio e invece Herrera osserva lo svolgimento della gara e spinge i suoi a attaccare, attacca la palla, non andare indietro a difenderti. Così al 77esimo è ancora lui, Sandro Mazzola, a chiudere definitivamente la partita a 21 anni. Mazzola, rete, 3-1. Stoppò questa palla, io feci finta di fermarmi, anche lui tentò di fare una mezza rovesciata, invece in quel momento io ripartii, lui non mi poteva vedere, me la stoppai di petto, arrivai davanti al portiere, finta sinistra e con l'esterno destro, palo interno, gol, e lì capimmo che eravamo campioni d'Europa, non c'era niente da fare. Eh sì, è il primo ricordo della mia vita, l'esterno destro con cui Mazzola mette la palla nell'altro palo e l'Inter vince la sua Coppa dei Campioni, la prima Coppa dei Campioni dell'Inter. A questo punto si comincia a parlare di grande Inter, di unica antagonista possibile al Real Madrid, aumentano i tifosi, come disse Herrera, aumentano gli interclub, aumentano gli introiti e l'artefice del successo è proprio lui. L'unica nota negativa è che il 31 maggio il campionato finisce con le squadre Bologna-Inter in parità, anche lo abbiamo detto, perché vengono restituiti 3 punti che erano stati tolti inizialmente al Bologna, si va allo spareggio del 7 giugno e il Bologna vincerà 2-0, ma la favola dell'Inter è appena cominciata. È difficile arrivare alla vetta, ma è anche molto più difficile mantenersi, e ci promettiamo, mentre io allenerò l'Inter, voglio che l'Inter rimanga alla vetta sempre. e a settembre del 64 si gioca contro gli argentini dell'Independiente la Coppa Intercontinentale, e come al solito quelle partite ne abbiamo già parlato con Gianni Rivera per quanto riguardava il Milan. Come al solito il clima è intimidatorio, l'Inter perde 1-0, si rifà a Milano dove vince facendo due gol, però a quei tempi era necessario un terzo incontro perché non c'era ancora il computo dei gol, e quindi si va allo spareggio che si gioca in Spagna a Madrid. Noi abbiamo fiducia perché loro hanno giocato le sue carte a Buenos Aires, che sono dei viaggi, di stanchezza, d'ambiente del campo, e noi abbiamo giocato le nostre carte qui e le giocheremo anche a Madrid. Noi abbiamo un grosso prestigio in Spagna anche perché abbiamo battuto il Real Madrid a Vienna, anche perché alleno io l'Inter, perché c'è Suárez e perché c'è anche Peiro. Ho fiducia in nostra squadra e speriamo che portiamo qui a tutta la famiglia interista il titolo di campione del mondo. Dopo del campione d'Italia, campione d'Europa, vogliamo assolutamente il titolo del campione del mondo. E così 45 anni prima dell'Inter di Mourinho, Eleni Herrera fa una specie di tripletta, nel senso che un anno vince il campionato e l'anno dopo vince la Coppa dei Campioni a giugno, a maggio, e a settembre la Coppa Intercontinentale. Eh sì, perché un gol di Mariolino Corso nei tempi supplementari consegna anche questo trofeo all'Inter, e non c'è più nulla da vincere quell'anno. La grande Inter entra così nella storia del calcio. La storia siamo noi. E poi c'è il campionato, e nel maggio del 65 l'Inter è ancora prima. Questa volta ha battuto in rimonta il grande Milan del grande Nereo Rocco. È una sfida tutta milanese. In quegli anni l'Inter e il Milan si contendevano veramente l'Italia, l'Europa e anche il mondo. L'Inter ha partecipato alla Coppa dei Campioni ancora una volta, e anche questa volta è arrivato in finale, si gioca a Milano, e questa volta c'è il Benfica di Colugna, di Torres, ma soprattutto di Eusebio. Sì, la formazione è confermata con Sarti, Borni, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Peiro, Suárez e Corso. Eusebio non la preoccupa? Sì, mi preoccupa tutta la squadra. Il Benfica è una grossissima squadra e salta fuori una finale veramente mondiale. È una grossa squadra che ha anche una grossa esperienza internazionale e una grossa esperienza della Coppa d'Europa del campione. San Siro è pieno, piove e c'è una seconda vittoria un pochino più rocambolesca rispetto alla meravigliosa impresa dell'anno prima. Quest'anno l'Inter vince 1-0 con un gol di Jair che passa complice il terreno scivoloso tra le gambe del portiere avversario. Poi l'Inter si difende, diciamo così, gestisce la partita e vince la seconda Coppa dei Campioni consecutiva. Anche questa volta Coppa Intercontinentale, anche questa volta Independiente di Buenos Aires. Questa volta però si risolve tutto in due partite, 3-0 all'andata e poi la solita battaglia in Argentina, che però finisce 0-0. E non è finita, perché il campionato del 65-66 termina col terzo scudetto dell'Inter, terzo scudetto in 4 anni. Però ci sono le prime avvisaglie. Nel 66 l'Inter viene eliminata in semifinale dal Real Madrid. Nel 67, in pochi giorni, si compie la fine della parabola nerazzurra, perché l'Inter va in finale di Coppa dei Campioni, perde 2-1 col Celtic di Glasgow, e la domenica perde il campionato con un gol dell'ex Di Giacomo del Mantova, che batte Sarti in contemporanea con una vittoria della Juve. Quindi in pochi giorni si sfalda e la grande Inter. L'allenatore argentino abbandona Milano e va a Roma, dove ancora una volta è bravissimo nell'ottenere un ingaggio molto alto. Non vincerà nulla a Roma, solo la Coppa Italia, però rimane come uomo ben ricordato anche dai giallorossi per il suo valore tecnico e per aver saputo gestire alla perfezione il suo personaggio. Era uno che praticava lo yoga, si automotivava ogni mattina con frasi tipo "io sono il migliore, nessuno mi può fermare". Insomma, riesce a trasferire le sue convinzioni, la sua autostima anche ai giocatori, crea un gruppo fortissimo e unito. Era un innovatore in anticipo sui tempi. Era avanti con i tempi di 50 anni, e quindi uno così non si può capire, è visto come una cosa strana. Lui, per esempio, per l'alimentazione metteva tutti a dieta. Sono quelle diete che tutti oggi fanno, prendere lo yogurt, mangiare dei cibi con della crusca, integrali. Ma questo 50 anni fa sembrava un pazzo. E questa è la voce di Fiora Gandolfi, la terza moglie di Herrera, la donna che dal 69 gli rimane accanto negli anni, anche nel momento in cui il calcio giocato, dopo un ritorno all'Inter senza grandi risultati, insomma a un certo punto il calcio giocato lascia il posto al calcio parlato, ai commenti della Domenica Sportiva, tutto fino a quel 9 novembre del 97, quando arriva il triplice fischio per la vita del mago Herrera. Un infarto lo ferma. Oggi Herrera viene ancora ricordato come uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi. È stato anche un personaggio che è entrato nel costume, lo dicevamo prima, per la prima volta l'allenatore diventa una star e quindi viene anche imitato, viene anche preso in giro. Per esempio nel film Il presidente del Borgo Rosso Football Club, il grande film col grandissimo Sordi, c'è un Carlo Taranto che interpreta un allenatore italo-peruviano che poi in realtà si rivelerà un impostore. Tutto questo ruota comunque dal punto di vista caratteriale attorno al personaggio di Elenio Herrera, perché il personaggio è chiaramente un'affettuosa presa in giro. Colpo grosso del Borgo Rosso! Il nuovo allenatore è il famoso italo-peruviano José Bonservizi. Ah, mi scusi, Bonservizi. Chiamalo mister. Sì. Ma sei sudamericano? Ma è importanza. Scusi, mister, possiamo essere sicuri degli acquisti, sicuro, vero? Lei mi ha dato carta blanca e dorma tranquillo. E i giocatori quando li potrà vedere? Ah, il 15 d'agosto ora sono tutti di vacazione al mare. E al mare ci vado anch'io. E chi lo lascia più questo stregone? Vi abbiamo raccontato la storia del primo grande allenatore del calcio moderno. È una storia fatta anche di rivalità con un altro personaggio di cui abbiamo parlato, che era Nereo Rocco, e soprattutto fatta di grande spettacolo e di un uomo che riesce finalmente a riscattare una squadra che aveva vinto poco e vincerà ben poco anche negli anni successivi, cioè l'Inter. Elenio Herrera, l'uomo che ha saputo dare colpi d'ala che hanno fatto volare una città, una squadra intera. Sono storie sempre di vite straordinarie quelle che abbiamo scelto di raccontarvi, e noi vi aspettiamo con altre storie. Vi chiediamo di segnalare via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se conoscete altre storie che meritano di essere raccontate, oppure seguitemi sui miei social. Insomma, potete interagire e trovarmi tutte le volte che volete, quando volete. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.